conosciuta, aspettando a quel treno. Poi mi parlavi della tua canzone e mi ricordo di quell'albergo. Portava il tuo nome, ma adesso dove sei? Ascoltare la mia canzone per te. Giulia, mi piace il tuo nome. Giulia, questa è la tua canzone. Giulia, adesso puoi cantare. Giulia, andiamo a lavorare. Il tempo passava e quel treno era vuoto senza te, e mi giravano le palle andare al lavoro senza Giulia, senza Giulia. Giulia, mi piace il tuo nome. Giulia, questa è la tua canzone. Giulia, adesso puoi cantare. Giulia, andiamo a lavorare. Giulia, mi piace il tuo nome. Giulia, questa è la tua canzone. Giulia, adesso puoi cantare. Giulia, andiamo a lavorare. La vita, ma tu sei sparita. Spero che tu puoi sentire la mia canzone che nasce e balla soltanto per te. Giulia, mi piace il tuo nome. Giulia, questa è la tua canzone. Giulia, adesso puoi cantare. Giulia, andiamo a lavorare. Giulia, mi piace il tuo nome. Giulia, questa è la tua canzone. Giulia, adesso puoi cantare. Giulia.